respiro. Ben ritrovati da Laura Bettini per questa quinta puntata del nostro viaggio di avvicinamento a Ecopolis, la fiera internazionale che si svolgerà a Roma dall'1 al 3 di aprile prossimi ormai. Si svolgerà presso la Fiera di Roma. Noi stiamo anticipando un po' questo evento attraverso la nostra trasmissione. A Ecopolis partecipano amministratori e aziende attive in vari ambiti. Nei precedenti appuntamenti abbiamo già parlato qui a Respiro di mobilità sostenibile, energie rinnovabili, rifiuti, acqua, tutte puntate che potete riascoltare andando nell'archivio di questa trasmissione sul sito di Radio 24. L'indirizzo è semplicissimo: www.radio24.it. Oggi parleremo di architettura sostenibile e lo faremo attraverso due concorsi i cui risultati vedremo a Ecopolis. Del primo ci parla Francesco Prosperetti, direttore generale presso il Ministero dei Beni Culturali della Direzione Generale per la Qualità e la Tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanea. Il concorso fu chiamato Sustainable Italy, che con un gioco di parole in inglese significa sostanzialmente Italia sostenibile. Fu lanciato in occasione del Festival dell'Architettura di Londra lo scorso anno, dove dopo la selezione dei progetti in concorso fu presentata una rassegna di 41 progetti incentrati sulla sostenibilità e firmati da giovani architetti italiani all'opera in Italia o nel mondo. Quest'anno la rassegna sarà a Ecopolis e noi a Prosperetti abbiamo chiesto come questi giovani progettisti raccolsero la sfida che era stata loro lanciata. Quello che si è capito è che parlare di architettura sostenibile in Italia significa riferire l'architettura a un contesto che è quello di un paese che è tra i più ricchi di valori paesaggistici e architettonici del passato. Allora forse un'architettura in Italia è sostenibile se si sa confrontare con un contesto di particolare valore e soprattutto di con un sedimento storico più ricco di quello di altri paesi. Un altro accento della sostenibilità dell'architettura che è stato apprezzato nel contesto della mostra di Londra è quello di una sostenibilità legata al sociale. C'è, tra questo le segnalo un progetto realizzato non in Italia ma da architetti italiani, lo studio Fare, in Burkina Faso, di un centro per le donne che identificava anche, come dire, un contenuto dell'architettura che mirato alla sua funzione. Abbiamo voluto ricordare che esiste una missione dell'architettura nel risolvere i problemi, anche i problemi più piccoli, insomma. E infine un altro elemento che è stato apprezzato nel contesto della mostra londinese per la peculiarità tutta italiana è quella che quasi tutte i progetti selezionati sono progetti di architetture a basso costo, in cui quindi la sostenibilità dell'opera si esprime attraverso la possibilità di realizzarla senza un coinvolgimento di grandi risorse finanziarie. La porto leggermente più là, ma visto che lei è un architetto ne approfitto. In Italia comunque in generale c'è bisogno di interventi sulla sostenibilità dei nostri edifici, così lei da che parte inizierebbe, potesse metterci mano subito? Ah, la ringrazio di questa domanda perché è un tema che segna un po' la nostra azione come Direzione Generale per l'Architettura Contemporanea. Noi abbiamo individuato almeno due aspetti importanti per una maggiore qualità della produzione architettonica nel nostro paese. Uno è quello delle procedure, cioè fare in modo che la produzione di architettura da parte, soprattutto mi riferisco alle opere pubbliche, quelle prodotte dalle pubbliche amministrazioni, sia sempre sostenuta o quanto più possibile sostenuta dallo strumento del concorso di architettura. Tant'è che a questo maggior ricorso ai concorsi di architettura si ispira anche il nuovo testo di legge sulla qualità architettonica che il Ministro ha voluto proporre già nei primi giorni del suo mandato come un fatto qualificante di questa legislatura. Ma c'è un altro aspetto che a noi interessa sotto il profilo della qualità e della sostenibilità dell'architettura, che è quello quello della sostenibilità dal punto di vista energetico. Abbiamo in corso un'iniziativa insieme all'associazione Mare Vivo per proporre i progetti di ricorso ad energie da fonti rinnovabili nell'architettura destinato alle isole minori del nostro paese. Lo spirito di questa iniziativa è quella di fare delle isole minori una specie di laboratorio per sperimentare architetture e modi di sfruttamento delle energie rinnovabili che siano compatibili con un ambiente dove le risorse sono limitate e dove il paesaggio è di particolare bellezza, di particolare significato. Dell'altro concorso parliamo invece con Livio Pilot, direttore generale di ANCAB Lega Coop. ANCAB, che significa Associazione Nazionale Cooperative di Abitanti, conta circa 450.000 soci. Si occupa di programmi edilizi per l'accesso alla casa in proprietà o in locazione, programmi dedicati a tutte le fasce sociali. Negli ultimi anni ANCAB ha però voluto riservare una particolare attenzione anche alla sostenibilità urbana ed edilizia. E quindi ha fatto quello che ci racconta Pilot. Noi abbiamo fatto un accordo nel 2006 assieme a Lega Ambiente, un protocollo d'intesa in cui un protocollo di collaborazione con le finalità assolutamente condivise e nelle quali siamo riusciti a fare delle cose egregie. Insomma, l'ultima cosa che abbiamo fatto è un concorso di progettazione, ovviamente di progettazione ecosostenibile, che abbiamo realizzato su tre aree del nostro paese, in tre comuni di Pesaro, di Foligno e di Tricase in provincia di Lecce. Questo concorso, che tra l'altro avrà la prima designazione dei vincitori la prossima settimana, il giorno 20 di gennaio, nella quale avremo anche la giuria che si riunisce per il primo intervento, che è quello di Pesaro. Insomma, abbiamo riunito una giuria che riteniamo importante, perché su queste cose qua dobbiamo avere anche qualcuno che riesca anche a entrare. Insomma, c'è l'architetto Cucinella, c'è il professor Oliva, presidente dell'INU. Insomma, abbiamo messo insieme un po' di personaggi importanti nella cultura dell'architettura in Italia e noi pensavamo che due di questi progetti, certamente non sappiamo Tricase perché i tempi sono un po' più lunghi, e portarli alla Fiera di Roma a fare proprio una manifestazione importante dove ci sarà la premiazione di questi progetti, di quelli che avranno vinto, e anche la presentazione di tutti quanti i migliori elementi che si sono dimostrati, perché abbiamo avuto una cosa incredibile. Noi pensavamo di arrivare a 20-30 progetti per intervento, quello di Foligno sono arrivate 92 proposte, per cui anche con dei problemi per la giuria e per la commissione tecnica molto molto grossi, perché c'è stato un successo veramente importante. Per cui pensavamo... Questo è anche un buon segno per l'interesse che i progettatori hanno adesso rispetto a queste iniziative. Credo proprio di sì, ma le dirò che la cosa importante di questo concorso, che abbiamo voluto un ambiente assolutamente diverso da un concorso di idee, è un concorso di progettazione per realizzarle queste case. Cioè non è che chi vincerà questa, perché chi vince praticamente vince la progettazione, cioè lui diventerà il progettista e dovrà fare il progetto esecutivo. Il che significa però che queste 20 abitazioni da una parte, 30 dall'altra e 30 da quell'altra, saranno realizzate, cioè saranno abitate dai soci delle nostre cooperative, il che significa che non sarà una cosa nella quale rimane là, faremo un bel catalogo, eccetera, ma verranno realizzati nei luoghi dove è stato localizzato l'intervento. I progettisti hanno dovuto confrontarsi con un progetto che deve essere realizzato e deve essere contenuto all'interno di quelli che sono i costi che noi abbiamo proposto, cioè non più di tanto a metro quadrato, perché la realizzazione in cooperativa ha questi parametri, in quel territorio quelli sono i parametri, per cui verificate quello. E devo dire che abbiamo trovato dei riscontri positivi, delle cose anche meno positive, però insomma la risposta è una risposta operativa, una risposta del fare, non una risposta soltanto del progettare. Senta, pensando a quello che è già costruito, lì come si potrebbe intervenire per migliorare le cose, per rendere queste abitazioni un po' più al passo, insomma, anche con le necessità? Certo, lì la cosa diventa molto più complessa, perché chiaramente lavorare sulla ristrutturazione da un punto di vista soprattutto climatico, parliamoci chiaro, perché poi non è che si riesca ad incidere sull'uso dei materiali, perché vecchie abitazioni quelle sono. Si può lavorare su qualche parametro, si può lavorare sugli infissi, perché quello per esempio è un parametro di riferimento, si può lavorare sulle coperture, si può lavorare sulle calci esterne, si può fare dei lavori che in qualche misura riescano a dare delle risposte, però tenendo conto che questo è un onere che non è un onere molto semplice, poi tenendo conto, se la mettiamo tutta, che questa grande innovazione che è stata con l'innovazione legislativa del 55% sulle ristrutturazioni e che adesso per carità sembra sia rientrata, ma all'inizio della legislatura sembrava venisse assolutamente cassata da un punto di vista legislativo, noi capiamo quanto questo tipo, diciamo, di incidenza anche da un punto di vista culturale sia una cosa di una complessità assoluta. Riteniamo che la presentazione che faremo ad Ecopoli sarà una cosa che dovrà avere un riscontro anche da un punto di vista, diciamo, generale, culturale e anche di personaggi che verranno a trovarci. Abbiamo già invitato il ministro, abbiamo invitato i sottosegretari, perché la politica è anche importante che su queste cose dia un messaggio anche di rottura rispetto a quella che era la prassi, diciamo, consolidata nei tempi passati. Riteniamo che, ecco, che questo, insomma, sia per l'importanza di Ecopoli, sia poi perché è un progetto secondo noi abbastanza innovativo, insomma, possa avere anche quel riscontro di comunicazione di immagine che credo che in questi momenti abbia importanza proprio per comunicare, voglio dire, i processi ecosostenibili in questo paese. È tutto anche per questa puntata di Respiro dedicata a Ecopolis. Vi ricordo il nostro sito internet per riascoltare la trasmissione, ma anche tutte le precedenti puntate di Respiro dedicate a Ecopolis, ma non solo, www.radio24.it. Per scriverci, come sempre, l'indirizzo è respiro@radio24.it. C'è una novità però: dalla prossima settimana, con il nuovo palinsesto di Radio 24, Respiro andrà in onda il sabato alle 16:30, quindi non la domenica, ma il sabato alle 16:30. Si prenderà anche un pochino più di spazio, perché saremo in onda dalle 16:30 alle 17. La domenica ci sarà la replica di Respiro al solito orario, alle 14, in versione però un po' più breve, in forma un po' più ridotta rispetto alla forma lunga del sabato. Adesso è tempo di dare la linea al riposo del guerriero con Stefano Gallarini. A tutti voi grazie dell'ascolto e appuntamento a sabato prossimo alle 16:30. Buona giornata da Laura Bettini.